America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We can be sure that what is in those emails is absolutely devastating. Thank you, Uma. Thank you, Anthony Weiner. Donald Trump all'attacco, approfitta della crisi di Hillary Clinton sul fronte delle rivelazioni dell'FBI, di queste nuove email, di cui per ora non si sa assolutamente nulla, e cerca di capitalizzare. Devo dire che per ora la manovra gli riesce, perché è riuscito a chiudere un pochino il gap delle probabilità. Per esempio Hillary la settimana scorsa aveva l'85% di probabilità di vittoria, oggi è scesa al 77,8%. Trump è passato dal 14% al 22,2%. Beh, dobbiamo chiederci tutti se lo chiedono anche qui in America, che cosa succederà in questi 8 giorni che ci separano dalle elezioni? Perché se in 6 giorni soltanto Trump riuscisse a recuperare altri 15-20 punti, cosa non impossibile, ecco che la differenza diventerà davvero marginale. Per questo Trump all'attacco, per questo in Michigan, dove in realtà perde, in Michigan è in forte minoranza, ma deve cercare, per poter avere qualche chance, di recuperare in quegli stati dove si trova svantaggiato, altrimenti non ce la farà mai. Vi ricordo, le elezioni in America si vincono grazie ai voti elettorali dei singoli stati, e in questo momento, nonostante l'intervento a gamba tesa dell'FBI, Hillary resta in vantaggio, le probabilità di vittoria sono ancora sue, non ha più 333 grandi elettori come aveva qualche giorno fa, ma ne ha 317, per vincere ce ne vogliono 270, Trump è risalito da 201 a 219, però è difficile che in questi pochi giorni che restano riesca a invertire la curva. Eppure ieri, come avete sentito nell'audio, era l'attacco, diceva grazie Uma Abedin, che è l'assistente di Hillary Clinton, grazie Anthony Weiner, grazie FBI, perché davvero avete fatto qualche cosa di buono per il paese, sarcastico ovviamente con Uma Abedin e Anthony Weiner, ma in realtà grato davvero al capo dell'FBI Comey, ha detto è un uomo che ha dimostrato di avere un grande pelo sullo stomaco per confrontarsi con i poteri forti. Insomma, tutto questo per dirvi che cosa? Che in America continua a esserci grande confusione attorno a questa vicenda dell'FBI. È intervenuta la Casa Bianca, che ha preso le distanze. John Ernst, il portavoce di Obama, ha detto la Casa Bianca non difende né critica la decisione di James Comey. Sappiamo che comunque è un uomo che decide in un contesto di integrità. Ecco, in questo contesto Hillary Clinton deve invece tenere, deve passare al contrattacco. Cosa ha fatto? Devo dire, sono giorni finali davvero carichi di tensione, affascinanti, perché nessuno poteva immaginare che succedesse una cosa simile, un po' si improvvisa. E dunque ieri Hillary che cosa ha fatto? Ha ripetuto l'accusa all'FBI, non soltanto di aver sbagliato nel fare quello che ha fatto, ma di avere delle carte riservate che riguardano contatti privati di Donald Trump con il Cremlino. Ecco, questo lo aveva già detto qualche giorno fa il capo della minoranza al Senato, Harry Reid, e ora Hillary cerca di ribaltare il tavolo, dire ma insomma, se avete tirato fuori le mie carte, perché non tirate fuori anche le sue? In questo contesto quello che interessa davvero è, diciamo, la squadra attiva, operativa, i militanti che sono vicini a Trump, questi alternative Republicans, questi repubblicani estremisti, aggressivi, che si sono improvvisamente ringalluzziti e che cercano di mobilitare il voto. Ecco, con me ai microfoni di America 24 Marco Valsania, che ha proprio scritto un'inchiesta su questo tema, uscita oggi sul Sole 24 Ore. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora Marco, questi alternative Republicans, cos'è? È la squadra d'azione, sono le squadracce di Donald Trump? Ma chi sono? Ma sono dei compagni di strada, a volte anche un po' scomodi, di Donald Trump, ma molto importanti per lui, lo sono diventati in questa campagna. Comprendono schegge impazzite della più varia natura, ci sono razzisti dichiarati, ci sono anche toni antisemiti e ci sono così i grandi difensori dell'identità bianca, dei suprematisti bianchi che quasi si richiamano al Ku Klux Klan. Ecco, tutti insieme in generale sostengono anche teorie cospirative, teorie che vedono Trump danneggiato da un'elite che lo vuole sabotare e quindi che rappresenta un po' la novità, il rinnovamento del paese America. Ecco, sono in sostanza gli alfieri della teoria del complotto, no? Ecco, esatto. Però ci sono anche dei giovani in mezzo a questi alfieri, no? Mi pare che ci sia, sì, un personaggio che gira per le università, fa comizi e riempie le aule. Questa è la cosa preoccupante, con queste sue tesi del complotto, tesi razziste. Come si chiama? Chi assolutamente è? Ci sono vari personaggi. Il volto forse più noto è diventato questo Milo Yiannopoulos, che è il technology editor del Breitbart News, tra l'altro Breitbart News che ha fornito il nuovo manager della campagna elettorale di Trump, che appunto è diventato molto popolare così presentandola questa nuova destra alternativa come un insieme di provocatori, di personaggi che vogliono sfidare soprattutto l'establishment e appunto rivoluzionare così la politica conservatrice. Ecco, e come si presenta? Perché si presenta vestito di bianco, non so, visto delle foto strane, poi è gay, insomma un personaggio, questi razzisti che in genere sono anti-gay in realtà... Poi ecco che lui diventa un personaggio post Ku Klux Klan, eccetera eccetera. Sì, si presenta sicuramente in modo molto diverso, come dicevi tu, molto flamboyant come modo di vestire, di presentarsi, giovane, 30 anni, un background appunto molto variegato, è un britannico di nascita con famiglia di origine greche, gay dichiarato, col gusto della provocazione, è uno dei pochi che è stato anche messo al bando permanentemente da Twitter per una campagna che ha condotto contro un'attrice afroamericana, per dire proprio di questo suo gusto per lo shock quasi per sé, diciamo. Ecco, e dunque questi alfieri, questi militanti sono, come dire, l'ultima speranza per Donald Trump di così di mobilitare, però portano un messaggio molto negativo nel quale gran parte dei repubblicani non si identificano, e dunque è una scommessa sbagliata oppure questo riuscirà a creare un'eccitazione tale da mobilitare il voto che gli manca? Ecco, questa è la grande scommessa di Donald Trump, bisognerà vedere se saprà tenere sotto controllo simili schegge impazzite che sono molto scomode e anche molto inquietanti e non invece esserne un po' travolto e dominato. Certamente si tratta di una scommessa inquietante, adesso bisognerà vedere in queste elezioni piene di sorprese come davvero andrà a finire, ma certamente se Donald Trump alla fine dovesse vincere e dovesse essere debitore di un simile successo a personaggi di questo genere, sicuramente questo non sarà un buon segno per l'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi è più tempo difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ripensando a quello che è successo ieri, l'FBI ha cominciato a esaminare queste email, tra l'altro il conteggio di queste email, pensate, di 650.000. Com'è possibile vedere e leggere 650.000 email in pochi giorni? E dunque questo è uno degli elementi chiave, no, che ci porta a dire, beh, forse era meglio aspettare, era meglio avere delle certezze. Email che appartengono al signor Wiener, alla signora Uma Abedin, non necessariamente a Hillary Clinton. E dunque cosa ha fatto l'FBI? Ha ingaggiato un robot che ha cominciato a velocità pazzesca a sfogliare queste email per capire se ci sono degli elementi che possono in qualche modo servire all'inchiesta. E dunque, pensando a questo robot che si trova al centro di queste elezioni americane, beh, di Andrew Bird vi propongo Not a Robot, But a Ghost. Non è un robot, è un fantasma. I'll run the numbers through the floor. Here's how it goes. I crack the codes, I crack the codes in any war. I crack the codes in any war. da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.